Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta la diretta. Per tutte le informazioni sulla scaletta e la trasmissione basta consultare il sito internet della radio, sempre sull'home page, colonna centrale alla voce trasmissioni Visionari, poi c'è la pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa e l'indirizzo di posta elettronica che è visionari@ondarossa.info. Allora, diamo inizio alla puntata di oggi con un ospite abituale per queste frequenze, Giorgio Ginori, direttore della 23esima edizione dell'Isola del Cinema qui a Roma, all'Isola Tiberina, da venerdì prossimo, domani 23 giugno, fino al 3 settembre. Giorgio, ben ritrovato a Visionari. Ciao Federico, ciao a tutti, è una gioia ritornare così a parlare con voi, a raccontarvi un po' i nostri progetti che quest'anno sono racchiusi dentro un titolo che è un po' un programma, si chiama il titolo Roma Città Creativa, sono 23 edizioni e noi finora abbiamo sempre così accolto, come forse ricorderete, paesi da ogni parte del mondo e poi quest'idea di cinema e cultura, questo salotto dove si progetta anche il cinema che si fa, e abbiamo sempre cercato fortemente il rapporto con la città, con la nostra città. Forse ricorderete Mamma Roma e i suoi quartieri, anzi invito sì. A andare sul nostro sito dove c'è il concorso anche quest'anno, Mamma Roma e i suoi quartieri, cioè la gente di Roma che racconta le sue emozioni quartiere dopo quartiere, quasi un palio dei quartieri che poi ha questo gran finale, per me è sempre emozionante perché arrivano da tutta Roma, dalle periferie, da tutti i quartieri, arrivano migliaia di persone che neanche entrano nella sala per vedere le loro emozioni su grande schermo. Però ecco, facevo questa introduzione per dire che quest'anno alla 23esima edizione abbiamo proprio consacrato una edizione a Roma Città Creativa, prendendo lo spunto, voi sapete che l'UNESCO, l'Isola Tiberina è un sito UNESCO, l'Isola del Cinema è un evento UNESCO, l'UNESCO ha dato il bollino a Roma come città creativa di cinema. Allora noi quest'anno abbiamo in mente di andare verso le periferie, verso i municipi, verso le 40 biblioteche sparse sul territorio di Roma e di creare un rapporto forte, ancora più forte, fra l'Isola Tiberina, che è questa specie di ombelico al centro di Roma, e invece tutta la città. Questo momento, qualcuno ha scritto che la creatività è emigrata in periferia. Andiamo a cercarla insieme. Giorgio, invece, per quanto riguarda le giornate, come sono suddivise? Le proiezioni a che ora ci sono? Allora, le proiezioni, noi alle 7, l'isola apre alle 7, poi ci sono eventi legati al caffè letterario, ci sono dei concertini, ci sono 4 schermi che hanno orari diversi e c'è lo schermo grande, l'Arena Grande, 700 posti, sempre molto spettacolare. E poi c'è il Cinema Tevere sulla piazza, una specie di agorà dove accogliamo scrittori, musicisti, i poeti, insomma è la piazza che ci permette anche di avere questo rapporto con la gente, con queste 3.000 persone più o meno che ogni sera scendono sull'isola. Poi c'è il laboratorio, il Cinelab, una specie di film studio sulle rive del Tevere, dedicato a film di qualità ma magari non ancora pronti per la grande platea dal punto di vista semplicemente dei numeri, intendo. Sì. E poi come ogni anno noi facciamo cinema in ospedale, che è la punta di diamante di un lavoro che noi facciamo verso il sociale, con tutta una serie di eventi che cercano di raccontare anche d'estate, anche con il caldo, questo momento importante non solo del cinema, non solo della cultura, ma anche del sociale. Ad esempio, che ne so, facciamo il concorso Migrarti, che racconta di questi, come dire, di questi momenti dei nuovi romani, dei nuovi italiani rispetto a quello che è il tema dell'accoglienza e della solidarietà. Intanto dentro l'ospedale Fate Bene Fratelli, nella bellissima sala dell'Assunta, voglio segnalare che ogni settimana ci saranno delle proiezioni. Voi sapete che all'università hanno aperto una sezione che si chiama cinematerapia, no? Questa idea che il cinema dà proprio una sorta di sollievo, leggerezza, magari non guarisce, però aiuta, in questo caso, persone un po' sfortunate che stanno in ospedale. E poi la cosa bella di queste proiezioni è che dentro la sala, quando il paziente scende, arriva pure la famiglia e si riunisce la famiglia intorno allo schermo bellissimo della sala dell'Assunta. Bene, bene. Senti Giorgio, a questo punto ci dai tutti i riferimenti web per la programmazione? Sì, se voi andate su www.isoladelcinema.com voi trovate il nostro programma. Ho tempo di segnalare una, certo, novità, certo. Una novità, perché a parte, ecco, questo rapporto sempre più forte con la città, con i quartieri, con i municipi, la cosa che volevo segnalare quest'anno è che c'è una full immersion in quella frontiera sempre più attuale tra videogiochi e cinema. Voi sapete che questa realtà virtuale a 360 gradi è sempre più interessante. Posso dire che almeno 50 film, non so, ricordate Tomb Raider con la bellissima Angelina Jolie, almeno 50 film sono stati presi a prestito dai videogiochi, e ci sono ben 300 videogiochi che sono stati presi a prestito dal cinema. Bene, noi su questa frontiera sempre più interessante faremo un programma molto interessante di questa, appunto, realtà virtuale a 360 gradi, sarà lì proprio sulla piazza, e sulla piazza ci sarà anche la Silent Music, che è un momento silent disco, cioè noi metteremo delle musiche, daremo delle cuffie che avranno questo colore azzurro, e abbiamo fatto degli esperimenti, è bellissimo perché c'è la gente che si aggira per l'isola in cuffia con la musica e tu la vedi che balla, contenta, felice, come un momento di leggerezza e di gioia lì sulle sponde del fiume Tevere. Benissimo. Allora Giorgio, un in bocca al lupo, un abbraccio e risentirci presto. Vi aspettiamo, volevo solo dire che noi saremo lì e grazie di seguirci e grazie più ancora se venite a trovarci. Noi saremo lì anche con le opere prime, c'è il concorso Opera Prima, Mamma Roma e sui quartieri, l'ho detta, fino al 3 di settembre. Ogni giorno ci saranno grandi eventi, 240 film, 80 di questi film saranno gratuiti, adesso non c'è tempo di dirli, però 50 di questi film saranno sottotitolati in inglese, ci sono 6 paesi da ogni parte del mondo, il 27 inizia l'Australia con un bellissimo Australian Focus. Insomma, vi aspettiamo, l'Isola del Cinema vi aspetta. Ciao Giorgio. Grazie. Ciao. Giorgio Ginori, direttore della 23esima edizione dell'Isola del Cinema, Isola Tiberina, qui a Roma, da domani 23 giugno fino al 3 settembre. Laura Valle, regista del documentario Adele Cambria, Incosciente e Coraggiosa, alla Casa Internazionale delle Donne qui a Roma, domani 23 giugno. Laura, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ben trovati, buon lavoro. Allora, come ci raccontavi poco fa fuori onda, si tratta di un lavoro di montaggio, raccontaci un po'. Dunque, come tu hai detto adesso, domani sera alla Casa Internazionale delle Donne verrà fatta una serata in memoria, in onore, in ricordo di Adele Cambria, e all'interno di questa serata, domani alle 18:30, e diciamo all'interno di questa serata si è pensato di fare un piccolo filmato per ricordarla. Ora naturalmente sappiamo tutti che Adele è morta 2 anni fa, quindi ce la ricordiamo tutti perfettamente, però ci sembrava che in questa serata fosse carino anche rivederla com'era, come si muoveva, quello che, e anche soprattutto sentirla, perché aveva anche un'ironia, una leggerezza nel dire le cose, anche cose anche molto importanti, come poi molte ne ha dette, e quindi ci sembrava carino farla rivedere e risentire, ecco. E dunque si è pensato di prendere alcuni brani, alcuni pezzi di archivio dove lei o presenta un libro o viene intervistata o in varie situazioni, metterli insieme per dare così, cioè, il senso di chi era, ecco, di com'era, di quello che diceva, di come lo diceva, così, insomma, all'interno di questa serata c'è anche questo pezzettino, sì, di video. Senti, in breve, dura una 20 minuti. Senti Laura, a proposito, sì, della sua figura, per chi ci ascolta, anche per i più giovani, le più giovani, che figura era? Cosa rappresentava? Qual è l'opera, il pensiero di Adele Cambria? Beh, lei ha fatto di tutto. Nata a Reggio Calabria, lo sappiamo, da giovane, ventenne o poco più, si è trasferita perché voleva fare la giornalista, voleva scrivere. Questo lei lo dice anche chiaramente nel video. Quindi, dopo una sera, è arrivata a Roma e lì ha cominciato a fare tutto quello che voleva, cioè la giornalista, la scrittrice. Stata inviata, firma direttrice anche di giornali importanti, Paese Sera, Messaggero, Espresso Europeo, Lotta Continua, quindi voglio dire una persona di un certo calibro. Dopodiché ha vissuto tutti quegli anni cercando di capire, di interpretare tutti i movimenti anche di quegli anni, parliamo anche in particolare degli anni 70, gli anni del femminismo. Cioè, lei è stata una protagonista, ha fondato, è tra le fondatrici di Effe, un giornale femminista di quegli anni là, voglio dire un personaggio molto presente e molto importante, sì, nel panorama letterario, politico, culturale italiano, sì, una donna di un grandissimo spessore. Nonostante fosse piccolina e padrolina, però voglio dire una forza, una vera forza della natura. Sì. Senti Laura, lei che questa serata insomma le va dedicata tutta e con grande forza. Ecco, proprio a questo proposito, come è organizzata la serata? Cosa prevede? Allora, la serata prevede un incontro, si chiama il salotto di Adele, perché alcune donne di un certo calibro, dice, del panorama femminile e letterario italiano di questi anni parleranno di lei, e sono Maria Rosa Cutrufelli, Sariana Scalzi, Simona Veller, aspetta, chi è che non mi ricordo? Alcune non me le ricordo, e parleranno di lei, quindi comincia alle 6:30, credo andrà avanti un paio d'ore, verrà presentato questo video e si ricorderà la sua figura. Bene, bene. Allora, tutte le informazioni si trovano sul sito internet e la pagina Facebook. Sul sito, sì, della Casa Internazionale delle Donne e di Archivia, perché questa cosa è stata fatta a cura di Archivia, che è, diciamo, la sede della biblioteca, sì, della, sì, biblioteca e dell'archivio di tutti gli atti della storia delle donne italiane e non solo, e che ha sede alla Casa Internazionale delle Donne. Benissimo. Quindi a cura di Arcidia e all'interno della casa, domani alle 6:30 ci sarà questo incontro su Adele. Laura, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, buon lavoro. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Laura Valle, regista del documentario Adele Cambria, incosciente e coraggiosa, la Casa Internazionale delle Donne qui a Roma domani 23 giugno. Eccoci con Carlo De Sì per parlare della 12ª edizione del Sardinia Film Festival ad Alghero dal 26 giugno al 1 luglio. Carlo, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno, grazie a voi per l'invito, è un piacere stare con voi. Senti, si tratta di una sezione del festival che ha una durata più prolungata invece, se non sbaglio. Ma sì, guarda, noi cerchiamo di portare il cinema, in particolare appunto con i cortometraggi, un cinema inedito in varie parti della Sardegna, e quindi facciamo una sorta di cinema a tappe, quindi sì, di festival sì. A tappe, coinvolgendo dei paesi intorno a Sassari, paesi o comunque città anche importanti come il caso di Alghero. Senti, questa settimana cosa prevede ad Alghero? Ma guarda, intanto un bellissimo tempo, spiagge stupende, un mare fantastico, per cui insomma se verrete a trovarci, oltre a vedere bel cinema internazionale, avrete l'opportunità di godere delle bellezze della costa algherese. A parte le battute, ci sarà ovviamente una serie fitta di proiezioni dei cortometraggi in concorso, e tra le attività collaterali ci saranno tre masterclass molto importanti. Di Gianluca Arcopinto, quindi sulla produzione cinematografica, e una invece verrà tenuta da Beppe Lanci, che insomma conoscete tutti, direttore della fotografia eccezionale, e l'ultima masterclass sarà targata dal maestro ungherese Belatar, quindi per noi è una grandissima soddisfazione essere riusciti a farlo arrivare in Sardegna per tenere appunto questa masterclass. Poi di notte lo omaggeremo con un premio alla carriera e con la proiezione di uno dei suoi film, che è Le armonie di Vernesser. Senti Carlo, quanti sono i cortometraggi proposti e poi se è prevista la presenza degli autori? Allora, è prevista la presenza degli autori, nel senso insomma che noi li invitiamo, ci saranno, hanno dato l'adesione diversi autori, anche se nella zona nord della Sardegna abbiamo qualche problemino con i trasporti, per cui insomma è un po' difficile, soprattutto in estate, gestire bene, come dire, lo spostamento degli autori, però ci saranno e saranno diversi. I film in concorso in questa sezione dovrebbero essere una sessantina e provengono da 16-18 nazioni sparse in tutto il mondo. Benissimo. Sentici, come è strutturato il festival? Come sono organizzate le giornate? Allora, le giornate, diciamo che c'è la base notturna che dalle 21 fino all'una di notte, 1:30, ci sono normalmente tutti i giorni le proiezioni dei cortometraggi in concorso. Apriamo il primo giorno con una selezione di cortometraggi provenienti da due festival partner, che sono il Fastnet irlandese, Fastnet Film Festival, e l'Edinburgh Short Film Festival scozzese. Questi sono due nostri partner che partecipano da 3 anni al Sardinia Film Festival, e noi partecipiamo a loro portando delle selezioni di film, insomma, giusto per amplificare la circolarità di queste opere, che insomma che vale molto la pena. Per cui la prima notte sarà così con questi partner. Gli altri giorni, ripeto, dalle 21 all'1, 1:30 ci sono le proiezioni dei dei cortometraggi, l'ultima serata sarà di premiazioni, e però nei pomeriggi invece avremo martedì, mercoledì e giovedì appunto le masterclass dei tre maestri che abbiamo citato poco fa, e il tutto accompagnato ogni sera da un'orchestrina che farà musiche a tema cinematografico e da un'associazione che invece si occupa di portare le poesie, per cui insomma ci sarà questo connubio tra musica, poesia e cinema come filo costante tutti i giorni della settimana del festival. Benissimo. Carlo, ci lasci tutti i riferimenti internet per la programmazione? Sì, potete trovare tutto nel sito del Sardinia Film Festival, che è sardiniafilmfestival.it, oppure insomma nella nostra pagina Facebook, che è molto attiva, sempre Sardinia Film Festival. Per chi è diciamo appassionato di cinema sicuramente riceverà a casa la copia in PDF di Diari di Cineclub, e anche lì insomma potrà trovare tutta una serie di informazioni inerenti al festival, perché insomma Diari di Cineclub è il nostro media partner. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie, a presto, vi aspettiamo in Sardegna. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Carlo Dessì, direttore della 12ª edizione del Sardinia Film Festival ad Alghero dal 26 giugno al 1 luglio. Con Marcello Fonte, regista del film Asino Vola, che sarà proiettato domani al Nuovo Cinema Palazzo qui a Roma, venerdì 23 giugno. Marcello, ben ritrovato su queste frequenze. Ciao, sì, io sono uno dei registi, poi c'è pure Paolo Tripodi. Quindi co-regista. Che arriverà domani, anzi arriverà stasera tarda, in partenza dalla Calabria, e quindi sta arrivando. Ok, io neanche sapevo di questa tua attività da regista cinematografico, Marcello. Ma vabbè, parliamo, cioè, non è, questa è capitata per caso, perché comunque è Paolo che mi ha spinto a fare questa cosa. Ok. Sì, non sapevo manco che voleva dire. Senti, Asino Vola, ce lo racconti un po'? Asino Vola è un po' tanto è tratta una storia vera, che era da quando ero piccolo io, e quindi che abbiamo attaccato addosso a questo bambino che abbiamo trovato in Calabria. Okay. È stato un lavoro lungo di 8 anni di scritture, di divertimenti. Poi ci siamo incontrati a San Lorenzo. La cosa bella è che questa triade, che eravamo io, Paolo Tripodi e Giuliano Mignari, che è lo sceneggiatore, quindi tre ragazzi per caso alla piazzetta del mercato di San Lorenzo, immagina, 12 anni fa, che si incontrano suonando la chitarra, come avviene qui ancora nelle piazze, nelle cose, e si incontrano. Da questo incontro è nato Asino Vola. Cioè, prima di Asino Vola si è partecipato a Solinas, ci hanno incoraggiato a continuare. Caterina D'Amico ci ha incoraggiato a scrivere un romanzo, dove poi abbiamo tratto il film, e domani lo vedrete. Sì. Vedrete un po', oddio, casa mia. Senti, diciamo, Marcello, sono cresciuto. Ecco, dicevi appunto una storia dell'infanzia, che risale all'infanzia, una storia vera, e che storia è? Per qualcosa diccela, però. È la storia di un bambino che non ha tante possibilità nella sua vita, perché è nato la fortuna l'ha fatto nascere in una famiglia povera, che non c'ha niente, che non si può permettere la musica perché è un lusso. E quindi lui persevera il sogno di suonare nella banda del paese, però la madre non vuole, perché gli strumenti costano. Certo. E quindi lui continua ad andare di nascosto della madre. Il maestro Angelo, quando arriva il momento dello strumento e questo bambino dice che tra poco glielo compra, intanto gli altri hanno lo strumento, lui no, E allora arriva il momento che il maestro vuole conoscere la sua famiglia per parlarci, e così scopre dove vive, dove sta questo bambino, sotto il tetto delle baracche. Vede queste baracche e lui rimane scioccato quando dice: siamo arrivati, sto qui. Insomma, sì. Sei? Sì, sì, sì. No, e il titolo Asino Vola? Asino Vola era chi l'ha detto che gli asini non volano all'inizio, poi è stato accorciato per sintetizzare, che è più pratico anche come titolo. Cioè, chi l'ha detto che gli asini non volano? Se tu ci credi, l'asino vola. Certo. Poi cioè, capito? Se ci credi, nella vita le cose avvengono, accadono. Bene. Insomma, questa è stata una cosa che capita una volta nella vita, e come è capitata, perché è tutta sì. Bella la storia che c'è dietro, perché abbiamo partecipato a Ecomovie, cioè non inquinare, sai, i gruppi elettrogeni, quelli nuovi che inquinano di meno, invece delle bottigliette dell'acqua abbiamo usato i bidoncioni con i bicchieri, con ognuno che si scrive il proprio nome. E la scenografia, gran parte della scenografia è stata usata, quella vera, originale, poi è stata riadattata da Bruno Melappione, che tra l'altro è da Lorenzo pure lui, che ha fatto la scenografia, e che lavoravamo, è stato lui che mi ha portato a vedere la prima cartina nel mondo del cinema. E quindi c'è tutto un contenuto di persone, una Cinecittà che è diventata il paese, una Cinecittà, tutti lavoravano per una cosa bella, quindi si è avuto la scusa di fare una cosa bella tutti insieme. Ognuno ha aderito con vestiti che c'aveva antichi, quello ha portato le macchine antiche, permettendoci di avere nel film quello che di solito non puoi avere se non c'hai tanti soldi. Certo, il film certo. È stato fatto comunque con la sua dignità, la produzione c'era, Tempesta Film, insomma hanno aderito tante persone, ci hanno aiutato e hanno fatto sì che questo avvenisse. Senti Marcello, allora dopo la presentazione al nuovo Cinema Palazzo che giri farà Asino Vola? E dopo uscirà, farà penso un tour dalla Calabria fino a Milano e via dicendo, speriamo che dipende. Speriamo che abbia vabbè, fretta non ce n'è, abbiamo fatto 30, facciamo 31, non è che c'è, il film è lì, certo, quando certo. Uno vuole far uscire lo fa uscire, certo, intanto certo. Lo vediamo noi in anteprima al Cinema Palazzo domani, sì. A domani, che ora domani? Alle 6:30. Ok. Però si inizia alle 5:30, ci saranno i giochi per i bambini, giocheranno questa cosa dell'asino a lanciarla, ci saranno i disegni da colorare, i colori, le tempere, verranno i ragazzi del grande Cocomero, pure loro a colorare, a sporcarci di colori, ci sarà la mostra sopra di alcune foto del set. Insomma, ci stiamo impegnando un po' tutti, c'è Patrick che insomma ci sarà un asino che girerà, un asino istruito che spiegherà ai bambini come si colora, come si fa, insomma un asino parecchio, perché di solito l'asino è ignorante, tutti pensano che l'asino è ignorante, invece quello che abbiamo noi è un asino istruito. Uno che leggeva i libri nella fiumara, nel torrente che trovava. Senti Marcello, allora l'appuntamento è alle 5:30, la prima proiezione alle 18:30 e poi sì, la seconda? La seconda alle 9:30, ci sarà un intermezzo di spuntino. Oh. Se stava pensando qui, non lo so, una pasta fredda, non lo so, noi vediamo. Va bene. La studieremo. Benissimo. Ci sarà tanta gente, sarà una festa, prenderla come una festa, è una chiusura pure per il Cinema Palazzo dell'annata e anche una chiusura per noi, che qua ci siamo incontrati e qua oggi ci parliamo del film, che è una cosa particolare che mi fa molto, che mi emoziona molto più di Locarno, sinceramente, perché Cinema Palazzo ci sto da 2 anni e mezzo, quindi è un po' far vedere casa tua, metterti a nudo nella tua zona, diciamo, nella tua quindi un po' di le persone vedranno da dove vieni, le tue radici quali sono, e quindi sono molto più emozionato di Locarno, devo dire la verità. Bene, bene. Allora Marcello, ricordiamo l'appuntamento con Asino Vola al nuovo Cinema Palazzo. Sì. Penso proprio di sì. Allora va bene, dai. Domani, venerdì 23 giugno, a partire dalle 17.30, la prima proiezione alle 18.30, la seconda alle 21.30. Arcello, un abbraccio, un in bocca al lupo. Divertitevi. E ci vediamo lì. Tutti, pure voi in macchina che state là, pensate ad altro, tanto con la mente si viaggia. Ciao Marcello. Un bacione, ciao, grazie. Un abbraccio, ciao. Grazie. Marcello Fonte, regista del co-regista del film Asino Vola. Eccoci con Michel Guarneri, autore del libro Questi fiori malati, il cinema di Pedro Costa, che sarà presentato qui a Roma oggi alle 19 a San Lorenzo, alla libreria Assaggi. Infatti Michel è in treno sul treno che lo porterà a Roma. Michel, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Allora, raccontaci un po' come nasce tutto. Sì, dunque, io nel 2014 ho curato una sezione interviste per un libro su Bellatar, regista ungherese, per l'editore Bebert di Bologna, e come, tra virgolette, compenso mi è stato proposto di fare un libro tutto mio su un regista di mia scelta, perché Bebert aveva all'epoca appena inaugurato questa collana dedicata esclusivamente a monografie su singoli registi. Allora, dato che ho avuto questa fantastica opportunità, ho deciso di scrivere un libro su Pedro Costa, che è questo regista portoghese che io ammiro moltissimo, e quindi niente, mi sono messo in contatto con Pedro Costa, sono andato a trovarlo, abbiamo fatto una lunghissima intervista di circa una settimana e sulla base in cui praticamente abbiamo parlato, insomma, dalla sua vita, da quando è nato nel 1959 all'altro ieri, e sulla base di questi dati che ho raccolto poi ho scritto il libro, che è una biografia ma anche un saggio di analisi dei suoi 10 film. E questo è quanto. Senti Michel, qui in Italia lo conosciamo ben poco. Sì, purtroppo, nonostante il suo successo, in realtà sia dovuto al fatto che nel 1989 il suo primo film, il suo film di debutto, Sangue, abbia avuto un successo a Venezia, al Festival di Venezia, quindi lui deve l'inizio della sua carriera proprio all'Italia, al Festival di Venezia. Qui in Italia è molto poco conosciuto e purtroppo il suo unico film disponibile a breve, credo, in DVD sarà Cavallo di Nero, il suo film che ha vinto miglior regia al Festival di Locarno nel 2014. Ecco, questo sarà purtroppo l'unica edizione italiana, l'unico suo film disponibile in Italia. Speriamo che nel futuro magari qualche piccola casa italiana si decida a pubblicare anche i suoi altri film, che tra l'altro sono comunque insomma abbastanza facilmente rintracciabili per sia legalmente che illegalmente su internet. Michel, quali sono i tratti della sua cinematografia che te lo hanno fatto amare? Sì, ma guarda, io credo che lui, sai, Pedro Costa è nato nel 59 a Lisbona, quindi c'era ancora la dittatura fascista in Portogallo, che è finita nel 74, e quando lui aveva 14 anni, e da quel momento in poi lui si è appassionato, diciamo, di politica, ha militato nell'estrema sinistra, poi il sogno rivoluzionario portoghese purtroppo per ingerenze americane è fallito, insomma, e sono ritornati con una sorta di centrismo inutile. Comunque sia, allo svanire questo sogno suo politico di ragazzo, lui ha fatto corrispondere per il resto della sua vita questo tentativo di costruire una sorta di comune dal basso con gruppi di amici, di diventare un cineasta che fa film piccoli con un gruppo di amici, lavorando con questi amici, fregandosene di tutto il resto, perseguendo le sue personali idee, la sua personale visione del cinema. E quindi questa è la cosa che forse ammiro di più, il suo desiderio di indipendenza, il suo desiderio di fare qualcosa di magari di piccolo, ma comunque nel piccolo andare in profondità. E la seconda cosa che ammiro molto di lui è questo tentativo di fare una storia di un popolo che non ha storia. Lui dal 2000 in poi ha consacrato praticamente la sua attività artistica e anche la sua vita a seguire questo gruppo di immigrati africani arrivati a Lisbona negli anni 70 e che gli sono parsi subito appunto un popolo senza storia, un popolo dimenticato da tutto e da tutti, persino dalla rivoluzione antifascista che c'è stata in Portogallo nel 74. E quindi lui dal 2000 in poi ha appunto consacrato la sua vita a seguire queste persone che vivono praticamente alla giornata. Allora Michel, ti abbiamo perduto improvvisamente, stavi dicendo persone che vivono alla giornata. Sì, appunto lui segue la vita di queste persone che appunto non hanno lavoro, non hanno nulla se non vivere di pochi espedienti, di spaccio, di piccola criminalità, e lui ha appunto consacrato la sua vita, la sua opera artistica a darci aprire questa finestra su questa comunità indigena. Eccoci al secondo tentativo. Sì, quindi niente, ti dicevo che una cosa che ammiro molto di lui è il fatto che appunto sta dedicando la sua vita a darci un'immagine di queste persone escluse dalla storia ufficiale, questa comunità di africani trasferitisi a Lisbona negli anni 70. Sono persone che ovviamente lavorano in nero, e se non lavorano si dedicano a spaccio, criminalità, eccetera. Però lui riesce a tirare fuori l'umanità di queste persone che sono suoi amici, non sono solo dei soggetti o delle persone strambe che lui sfrutta per motivi suoi di sensazionalismo, ma sono suoi amici, sono persone con cui vive tutti i giorni, e lui si è immerso totalmente in questa comunità, e di questa comunità sta facendo tra virgolette la storia, perché loro, come Pedro Costa dice spesso, loro non hanno storia, loro sono destinati all'oblio, e lui cerca di combattere contro questo, ed è una cosa che ammiro molto, forse la cosa che ammiro di più di lui. A proposito di libertà, lui insieme ai suoi amici ha dato vita anche a un esperimento, un'esperienza di produzione indipendente. Sì, esatto. Lui a partire dalla fine degli anni 90, quando le piccole videocamere digitali stavano più o meno diventando di prezzo abbordabile a tutti, lui ne ha comprata una, e da allora in poi lui lavora con questi mezzi tecnologici alla portata di tutti, 2-3 mila euro neanche, e lui gira film a bassissimo prezzo con un gruppo di amici, e insomma lui è il capo di se stesso, è riuscito a diventare il capo di se stesso, e per lui certo è un'utopia forse, ma è un'utopia vera, è un'utopia realizzata, e lui ci dimostra col suo esempio che è ancora possibile sfuggire ai diktat, no, dell'industria cinematografica, e fare quello che si vuole fare, come lo si vuole fare, con pochi soldi. E quindi anche spero che il mio libro, raccontando la storia della sua vita e del suo modo di produzione, possa ispirare anche magari giovani registi italiani che non trovano spazio nell'industria, ma che magari possono diventare i capi di se stessi e loro, e fare quello che vogliono fare, come lo vogliono fare. Michel, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più sul libro? Sì, dunque basta andare su bebert.it. Bebert.it, perfetto. È il sito dell'editore. Benissimo. Allora ricordiamo l'appuntamento alla libreria Saggi qui a Roma, a San Lorenzo, alle 19 di oggi, 22 giugno, con Michel Guarneri, autore del libro Questi fiori malati, il cinema di Pedro Costa. Michel, a dopo. A dopo, ciao. Ciao, ciao, ciao. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta, e sempre sul sito internet sull'home page trovate anche alla colonna centrale, alla voce trasmissioni Visionari, tutte le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione, idem su Facebook, sulla pagina Facebook della trasmissione, ossia Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. ritroviamo Fabio Mancini, curatore della nuova stagione di Doc 3 che prende il via oggi 22 giugno, giovedì 22 giugno fino al 14 settembre. Fabio, ben ritrovato. Ciao, grazie, grazie a tutti voi, ben ritrovati, ben ritrovati. Allora, Doc 3 è sempre un piacere. Una stagione che parte da fine giugno fino a metà settembre. Gli appuntamenti sono settimanali? Allora sì, quest'anno tutti i giovedì in seconda serata. Partiamo, come hai detto tu, stasera alle 23:15. Partiamo subito per la Corea del Sud. Anche quest'anno, insomma, abbiamo deciso di fare un giro del mondo, spero interessante, toccando tante storie diverse tra di loro. Allora, quanti sono i lavori, da quanti paesi? Raccontaci un po'. Guarda, quest'anno abbiamo veramente cose molto, molto diverse. Sono 12 documentari, partiamo stasera con la Corea, poi ritorniamo settimana prossima in Italia con La Terra dei Motori, che è un viaggio un po' nel mondo delle mini moto. Ovviamente, come sempre, Doc 3 non è tanto lo sport, è più una scusa per vedere che tipo di relazioni ci sono tra le famiglie, questi giovani campioni che sono tra gli 8 e i 10 anni, e che tipo di dinamiche si instaurano tra di loro. Poi continuiamo, abbiamo Last Man in Aleppo, questo viene dal Sundance, e quindi sono i White Helmets che sono ancora in città, per poi proseguire con Eric Gandini per andare con il Chirurgo Ribelle in Africa, e poi in India, in Cina, insomma ne abbiamo veramente, anche in Giappone. Sì. Senti, c'è un filo conduttore tematico o andate in completa libertà? Ma guarda, la cosa che ci interessa non è tanto tematica quanto un'idea che noi abbiamo abbastanza precisa, cioè di trovare delle storie con dei personaggi forti che ci aiutino a entrare in mondi e in situazioni che sarebbe difficile avvicinare. Sono ovviamente documentari che poi nascondono oppure portano in evidenza problematiche politiche, sociali, culturali, però sempre attraverso dei personaggi che ci permettono veramente di fare un percorso che altrimenti sarebbe difficile o magari didascalico. Quindi questa è la strada che continuiamo a seguire. Fabio, ci fai una panoramica anche sugli altri lavori? Assolutamente, assolutamente. Eravamo arrivati al Chirurgo Ribelle di Eric Gandini, sì, che sarà il 20 luglio, che è una storia eccezionale perché è un primario che dalla Svezia si trasferisce in Africa, dove apre un ospedale da campo, e anche lì, come dicevo prima, trasforma completamente la prospettiva del suo lavoro. Cioè, il suo grande orgoglio è che un trapano per le operazioni che in Svezia pagava 4.000 euro al mini market del villaggio ne costa 13, e l'operazione è la stessa e il risultato è lo stesso. Proseguiamo con il mio amico Angry Bird, che è una storia abbastanza incredibile perché è un tenore coreano che abbandona il palcoscenico, si trasferisce in uno slam indiano per aprire un coro per bambini. Quando capisce che la comunicazione, che i genitori in fondo stanno sperando che i bambini, uno di questi possa diventare una star, capisce che il messaggio non è giusto e trasforma il coro in un coro genitori-bambini, e quindi creando un cortocircuito proprio di emozioni e di prospettive all'interno dello slam. Abbiamo poi Prison Sister, che è veramente un film molto importante perché è il seguito di No Burkas Behind Bar. Quindi il primo film seguiva una donna all'interno di un carcere afghano, Il seguito del film è Questa donna arriva in Svezia, il regista è in scena per tutto il documentario, assisteremo alla trasformazione di una donna che abbiamo visto velata, negata continuamente, che si approccia alla vita in cose che noi potremmo giudicare quotidiane banali, sto parlando dall'andare in altalena, imparare ad andare in bicicletta, assistere al Gay Pride di Stoccolma, quindi in fondo la sua meraviglia ci porta anche a rivedere un po' il nostro sguardo. Ancora abbiamo poi un lavoro molto interessante che ci porta in Cina, che si chiama Nel Sole. Praticamente non c'è una politica per i figli dei condannati cinesi, i figli dei condannati a morte diventano in maniera automatica bambini di strada senza possibilità più di accesso alla società. C'è una donna che invece ha creato dei villaggi dove loro possono in qualche modo recuperare la possibilità di vivere all'interno di una società. È molto bello, con delle immagini anche molto molto importanti. Continuiamo con Primo Movimento, che è un film tutto italiano che segue l'orchestra giovanile italiana. Ci è piaciuto molto perché sono giovanissimi studenti di musica solisti che per la prima volta confluiscono in un'orchestra, è un anno della loro vita, e anche qui, come dicevo prima, è interessante capire come si rinuncia a una parte di sé per entrare in un organismo più ampio, collettivo, cosa si rinuncia, cosa si guadagna, quindi ci interessava molto. Ancora abbiamo il 24 agosto Inside the Chinese Closet, che è un lavoro di una giovanissima regista italiana. Andiamo ancora in Cina, seguiremo un ragazzo, un giovane gay e una giovane lesbica. In Cina è molto difficile sfuggire a quella che è la pressione familiare, cioè bisogna sposarsi e avere un figlio. Questa generazione di giovani omosessuali subisce un ricatto molto prepotente e spesso, anzi come seguiremo in questo film, sono costretti a matrimoni di facciata, adozioni di facciata, per poter resistere, per poter in qualche modo non venir soffocati dalle pressioni sociali. Gli ultimi tre, velocemente, abbiamo The Children of the Moon, andremo di nuovo in Africa, in Kenya, anche qui, dove gli orfani dell'AIDS, anche loro subiscono in qualche modo una ghettizzazione sociale molto forte. C'è un piccolo centro che si prende cura di loro in Kenya, proprio in montagna, e la cosa interessante è che, essendo tutti giovanissimi, sono bambini e preadolescenti, il lavoro che si fa è di usare la loro cultura per spiegare, fare accettare la loro condizione, quindi non c'è nessuna in qualche modo imposizione di una diversa visione, ma viene usata tutto il loro bagaglio culturale e fantastico per aiutarli in questo percorso. Continuiamo gli ultimi due, il 7 settembre abbiamo Tokyo Idols, andremo in Giappone, il fenomeno delle idols, che sono giovanissime performer che hanno un pubblico incredibile, anche qui ovviamente ci interessava capire che tipo di relazione, e scopriremo che il pubblico è un pubblico maschile, un pubblico adulto, che l'unica cosa che interessa è a non avere relazioni reali che possano provocare dolore e dispiacere, e quindi seguono e adorano queste, come posso dire, queste bambole, tra virgolette, queste creature non reali, e in quello pensano di poter sfuggire al dolore e delle implicazioni sentimentali. E chiudiamo con un bellissimo documentario che è The Return, che si svolge tutto in un campo profughi nel Kurdistan iracheno, dove la comunità yazida è ormai da 3 anni, sono 20.000 persone, sono rinchiuse in questo campo, in una specie di non luogo, in una non vita, e seguiremo questa giovanissima volontaria che si occupa dei bambini in particolare, ma in fondo poi riesce a creare nuove dinamiche dialettiche proprio rispetto ai traumi incredibili che poi vedrete che questa comunità si porta dietro. Ecco, questa era una velocissima carrellata. Certo, certo. Fabio, in chiusura, allora ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Assolutamente, grazie. Allora, la pagina ufficiale è sempre doc3.rai.it, la pagina Facebook è quella doc3 ufficiale per seguire la programmazione, gli aggiornamenti, ci sono articoli, ci sono foto anche per approfondire temi che speriamo, al di là della visione del documentario, possano poi creare interesse e prospettive nel pubblico per creare, insomma, un po' un circuito più grande di ricerca e di conoscenza. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Un abbraccio a voi, complimenti, buon lavoro e grazie ancora. Ciao. Ciao. Fabio Mancini, curatore della nuova stagione di Doc 3, da oggi giovedì 22 giugno fino al 14 settembre. Antonio Giuliano di Bunker Hill sulla distribuzione del film Metromania di Sean Ellis, in uscita in sala ieri, mercoledì 21 giugno. Antonio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, buongiorno, ben trovato e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Metromania, raccontiamo subito a chi ci ascolta di cosa si tratta? Sì, allora, Metromania in realtà è, al di là del suo aspetto, è un film inglese, perché dall'ideazione alla realizzazione è opera di Sean Ellis, che è un bravissimo giovane regista inglese che già col suo primo cortometraggio si fece notare ottenendo una nomination agli Oscar. Il cortometraggio si chiamava Cashback e poi da quello è stato addirittura fatto poi un film lungometraggio. Il suo secondo lungometraggio appunto è Metromania, che in realtà però è girato tutto nelle Filippine, appunto a Manila, con pochissimi attori professionisti di filippini, appunto. Però in realtà Ellis ha curato dall'ideazione, quindi dal soggetto, alla sceneggiatura, alla regia, ma addirittura la fotografia e le riprese in steadicam, quindi è un film d'autore veramente al 100% da questo punto di vista. Che tu sappia, com'è partito tutto? Perché questo interesse per questa storia di una famiglia contadina che arriva a Manila da parte di un cineasta inglese? Beh, la storia della nascita del film è un po' singolare, mi fa venire in mente quando Dino Risi diceva mi affaccio alla finestra e sto lavorando, no? Come faccio a spiegarla a mia moglie? E lui praticamente, Sean Ellis, era andato in vacanza a Manila, era okay. La prima volta che andava nelle Filippine, e ha assistito davanti proprio con i suoi occhi, è stato testimone di una scena di una lite tra due agenti di sicurezza dei trasporti blindati, dei furgoni che trasportano valori blindati, e da quella scena l'ha talmente colpito che gli è venuto così di getto in mente tutta la storia del film, che poi è diventato il soggetto di Metromania. Sì. Poi per lo sviluppo in sceneggiatura si è rivolto a un bravissimo sceneggiatore americano che è Frank Flowers, e insieme hanno scritto il copione. Mm-hmm. Antonio, cosa ti ha convinto del film? Beh, allora, noi, come ormai avrai capito, distribuiamo pochissimi titoli e molto selezionati. La selezione la facciamo in base al grado di cuore che vediamo che è stato messo nel film. Sì. Quindi si vede che è un film fatto veramente di pancia, di istinto, non è un film, non è un'operazione commerciale o un film ragionato a tavolino, è veramente un film puro, possiamo dire, sia nella tematica che nel contenuto, ma anche nella realizzazione. È un film veramente indipendente, girato in massima libertà e si vede tutto questo, e penso che insomma sia trasmesso al pubblico quando lo si vede. Come è andato all'estero? Beh, il film da subito ha avuto un notevole successo, perché è stato presentato al Sundance di qualche anno fa e vinse il premio del pubblico. Poi da lì ha avuto un percorso distributivo abbastanza fortunato, è uscito in tutti i maggiori paesi, incluso anche la Francia, oltre ovviamente agli Stati Uniti, e addirittura oggi è in sviluppo da parte di Fox. Sta Stati Uniti, quindi la vera Fox, Fox madre, diciamo, è il remake del film, con ovviamente, immaginiamo, avrà una, come tutti i rifacimenti hollywoodiani, un cast insomma importante, ma ancora è solo in fase di sviluppo. Sì. Lo vedremo nei prossimi anni, scopriremo se poi era più bello l'originale o il rifacimento che faranno. Senti, ripensando alla storia, è un po' transnazionale la storia di una famiglia contadina che insomma, a causa delle ristrettezze economiche, perché poi il raccolto gli viene pagato sempre meno, decidono di trasferirsi in città, dove sono preda anche a causa della loro ingenuità di raggiri di tutti i tipi. Sì, certo, la scelta di raccontare questa storia nelle Filippine è nata per il fatto che diciamo ben si prestava all'ambientazione odierna della storia, ma in realtà non è un film sulle Filippine o sulla situazione politica, diciamo, non è un film che vuole raccontare le Filippine, è un film che vuole raccontare la cattiveria umana nella città. In realtà Manila in questo film ricorda molto la Londra di Dickens, per esempio, sì, dove ogni personaggio no, è malvagio e pronto a compiere le bassezze peggiori pur di accaparrarsi un proprio profitto, un proprio vantaggio. Quindi in realtà non mi sento di definire Metro Manila un film sulle Filippine, è un film solo ambientato nelle Filippine, certo, ma è sulla cattiveria della città nel suo complesso, e quindi è molto universale come discorso. Senti Antonio, in quante sale è uscito il film? Allora, questa prima settimana il film è in 6 sale, a Milano al Cinema Beltrate, a Roma al Cinema dei Piccoli, a Torino al Cinema Centrale, a Genova al Cinema America, Padova all'MPX e Perugia al Postmodernissimo. Il film è distribuito solo in lingua originale, perché riteniamo che sia una scelta più corretta per questo tipo di prodotti, dove abbiamo visto che il pubblico che ha un certo palato e una certa anche predilezione per un certo tipo di film preferisce ormai vederlo in lingua originale, quindi poi sarà doppiato solo per i passaggi, per l'uscita televisiva, diciamo. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, certo, basta andare sul Facebook di Bunker Hill, appunto, che Facebook/Bunker Hill, e lì potete trovare tutti gli aggiornamenti dal nostro Facebook, e poi è facilissimo individuare la sala della propria città e seguire la programmazione con gli orari, le info sui biglietti e tutto quello che serve per poterlo vedere. Bene, allora un abbraccio, un buon proseguimento, a risentirci presto. Grazie, alla prossima. Ciao. Antonio Giuliano di Bunker Hill sulla distribuzione del film Metro Manila di Sean Ellis, uscito in sala ieri, mercoledì 21 giugno. In collegamento con noi il regista Alessio Genovese per parlarci del progetto di crowdfunding per il corto d'animazione Fanchino. Alessio, ben ritrovato. Ciao caro, buon pomeriggio, ben trovati a tutti. Bene, buon pomeriggio, mi avevi segnalato questa nuova avventura e allora ne parliamo diffusamente oggi in trasmissione con te. Grazie, sì, quello che stiamo raccontando è un processo alternativo di produzione culturale nel campo cinematografico che stiamo provando a realizzare a Palermo insieme agli altri sognatori da ogni parte d'Italia, perché crediamo che questo particolare momento storico abbia bisogno di nuovi impulsi e stimoli alle produzioni culturali, e che si debba in un certo qual modo essere inclusivi di quelle nuove esperienze che oggi la nostra società mal rappresenta, che sono appunto le esperienze di quelli che noi chiamiamo nuovi cittadini, e quindi vorremmo riuscire a trovare delle reali occasioni di accesso al mondo del lavoro culturale per richiedenti asilo e per tutti coloro che hanno compiuto, diciamo, quella che viene chiamata diciamo così un periodo all'interno di quella che viene chiamata accoglienza, a vario titolo. ed è così che nasce Fanchino, che è un'idea sperimentale, appunto un prototipo per creare questo tipo di percorso. Come si realizzerà? Si realizzerà in modo partecipativo, cioè noi coinvolgeremo 15 ragazzi tra i 18 e i 28 anni in accoglienza o in uscita dai centri d'accoglienza, quindi che hanno compiuto il loro periodo all'interno delle strutture di prima e seconda accoglienza a Palermo, e che sono probabilmente le persone che hanno più bisogno di trovare concretezza al loro percorso, trovando delle reali occasioni di lavoro. Questi ragazzi verranno coinvolti all'interno di un processo produttivo in ambito cinematografico dall'inizio alla fine, che significa che dall'ideazione del soggetto del cortometraggio che andremo a realizzare fino alla scrittura, che verrà in modo partecipativo, e poi durante la realizzazione loro verranno coinvolti attivamente, appunto scrivendo insieme a noi e realizzando insieme a noi questo cortometraggio, che diventerà poi un cortometraggio di animazione che ha come oggetto il tema del lavoro, perché noi crediamo che si debba parlare di lavoro, lavoro per tutti, quale condizione necessaria per poter dare senso compiuto al diritto di cittadinanza, e per noi italiani, diciamo, di vecchi italiani, e per i nuovi italiani che pure hanno bisogno di trovare lavoro. Senti Alessio, ecco, ti volevo chiedere come mai questa doppia scelta del formato corto e dell'animazione. Ma diciamo che sono state le necessità produttive a imporre la scelta sul corto. Quindi questo progetto l'abbiamo appena lanciato su un crowdfunding, su produzioni da basso, quindi con un crowdfunding, è un budget molto basso, sono 15.000 euro che dobbiamo trovare entro l'8 di agosto. Quindi con questo budget, con tutto quello che c'è intorno, che coinvolgerà un team creativo molto composto da diversi artisti di ogni parte d'Italia, ci siamo resi conto che oltre non potevamo andare. E poi l'animazione perché? Perché a noi piacerebbe che tutto questo venisse raccontato in una sorta di fiaba scritta insieme ai ragazzi. E quindi l'animazione è quale strumento che è in grado di spersonalizzare al massimo il racconto, comunque di creare una sorta di distanza tra coloro che l'hanno ispirato e i protagonisti del racconto. Questo perché c'è tutto un ragionamento molto serio che abbiamo fatto nei mesi scorsi con l'associazione Zabara, che produce questo lavoro, e con tutti i partecipanti al team creativo, che sostanzialmente ci troviamo tutti d'accordo nel fatto che le autonarrazioni o quei tipi di processi che vengono spesso offerti ai ragazzi in accoglienza, che hanno appunto nell'autonarrazione il loro momento massimo, siano in realtà delle esperienze monche che sin dall'inizio, che non riescono da una parte né a rappresentare questo spaccato, questa nuova società in cui oggi viviamo, né a creare delle alternative concrete appunto di inserimento nel mondo del lavoro a questi ragazzi. Quindi noi come primissima cosa abbiamo deciso di fare un lavoro di onestà e di sincerità. Quindi quello che stiamo facendo è il lavoro per tutti. Okay. Quindi dobbiamo trovare quello che faremo è formare e creare dei percorsi di professionalizzazione e cercare di creare delle nuove vie alla produzione cinematografica. Ovviamente è molto ambizioso, può sembrare molto ambizioso, ma Fanchino è un prototipo che avrà quando riusciremo a raggiungere il traguardo dei 15.000 euro, e quando arriveremo poi, una volta arrivati alla fase finale della realizzazione del corto, noi con quello stesso budget assumeremo uno dei partecipanti all'interno della struttura, che significa che cominceremo a dare la possibilità concreta di poter a questi ragazzi, ad almeno uno, di continuare a lavorare in ambito cinematografico. Dico che è un prototipo perché poi noi vorremmo continuare a Palermo con questo tipo a lavorare con questo tipo di progetti. Sì, sì, sì. Questo titolo? Fanchino, il cinema che si diverte, è molto funky. Benissimo. Senti, in chiusura, ci dai tutti i riferimenti web? Certo, su Produzioni dal Basso trovate il progetto Fanchino, ed è questo il primo link che vi do, perché è da lì che potete aiutarci a realizzare questo sogno. Poi su Facebook c'è una pagina Facebook, io sappia, che appunto che porta il nome del progetto, quindi Fanchino. Poi l'associazione che produce tutto è Zabbara, e anche lì, volendo, ci sono dei riferimenti, ma soprattutto il link più importante è quello alla pagina su Produzioni dal Basso. Chiaramente Fanchino è scritto Funkino, per chi... Esattamente. Okay. Insomma, scoprite il Fanchino che è già in voi, cioè, la cosa figa è che Fanchino è tra di noi e ancora noi non lo vediamo. Mettetelo in movimento, sì. Alessio, un abbraccio e a presto. Grazie mille, un abbraccio a tutti. Ciao caro. Il regista Alessio Genovese sul progetto di crowdfunding per il corto d'animazione Fanchino. Avremmo dovuto sentire Giovanna Taviani, la regista Giovanna Taviani, in qualità di direttrice dell'11ª edizione del Salina Doc Fest dal 24 al 29 giugno, ma nell'isola di Salina la linea è difficile da prendere con il cellulare, per cui non è raggiungibile, però segnaliamo noi il festival, insomma, ripeto, l'11ª edizione del Salina Doc Fest dal 24 al 29 giugno. E ci sarebbe anche piaciuto parlare con Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, per parlare della 31ª edizione del Cinema Ritrovato a Bologna dal 24 giugno al 2 luglio. E così non è, purtroppo, entrambi sono irraggiungibili. A questo punto ci salutiamo per quanto riguarda Visionari. Ci diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre dalle ore 14 alle 15, in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. Sull'home page c'è Ascolta la diretta, e sempre sull'home page, sulla colonna centrale, alla voce Trasmissioni Visionari, c'è la scaletta e tutte le informazioni sulla trasmissione, anche sulla pagina Facebook della trasmissione, ossia Visionari e Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.